soldi, tu li fai i soldi. Sempre questi soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi. Fanculo. Ok, senti, ho capito che il sistema gira intorno al cash. È anche una delle prime cause dello stress, perché per alcuni diventa un chiodo fisso. Se ci penso mi intristisco, c'è chi vuole i soldi, pensa i soldi, sogna i soldi, spreca la vita nel vano tentativo di fare soldi. C'è chi c'ha soldi per i soldi, ucciderebbe molti amici, ma non ve ne siete accorti. Che soldi servono, ma non sono necessari, che soldi comprano solo i beni materiali. E il tuo denaro è privo di valore, privo di valore. Se sei povero nel cuore, povero nel cuore. E di soldi si parla continuamente, un po' perché sono loro a smuovere la gente, un po' perché nessuno ti regala niente, un po' perché mancano sempre. Dicono che i soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io ho molto di più, molto di più. E dicono che i soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io ho molto di più, di più, di più. E anche se cerchi sempre di non pensarci, i soldi tornano sempre in ballo. Io sto con le pezze al culo, ma me ne foto, suono, canto e ballo. Cerco di non buttarmi giù, tanto io ho molto di più. A volte però ci penso a come sarebbe se fossi ricco. Potrei comprare tutto quello che voglio, girare il mondo, riempirmi di comfort, sempre pieno il portafoglio. Potrei condurre una vita da sogno, avere 6 case e 2 yacht, la Bentley, la Porsche e 100 strafiche. That's hot. Però dentro di me penso che me ne farei di tutta sta roba. Dicono che i soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più, molto di più. E dicono che i soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più, di più, di più. E so che con i soldi, soldi, soldi potrei realizzare molti, molti sogni. Ma è anche vero che chi ha i soldi smette di sognare. So che con i soldi, soldi, soldi potrei soddisfare molti più bisogni. Ma è anche vero che la mia vita mi piace così com'è. Dicono che i soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più, molto di più. E dicono che soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più, di più, di più. Dicono che soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più, molto di più. E dicono che soldi, soldi, soldi, soldi fanno felici, ma io molto di più. Che ci vuoi fare? Fanculo questi fottuti soldi, man. Ci sono cose molto più importanti. Alla mia ragazza, ai miei genitori, a mia sorella, ai miei parenti, a mio cugino Smash, sì. A Kaiser e Nisk, alla mia classe, a Benito Merlo, ai sold out, a chi mi ama, a chi mi odia. Loro sono il mio tesoro. E vale molto di più.